Irrinunciabili presenta per RadioBigWorld.com Point Break, un film di Kathryn Bigelow. Per me Point Break, l'originale, intendo quello del 1991, non quella porcata di remake che hanno fatto recentemente, è uno dei manifesti degli anni 90. Se in quegli anni ero un ragazzino, non potevi non essere rimasto affascinato da questa pellicola, stracarica di emozioni e adrenalina. Keanu Reeves è il giovane poliziotto Johnny Utah. Lui e il suo collega hanno un'intuizione. La banda di rapinatori di banche che terrorizza Los Angeles è composta da surfisti. Allora cosa fare? Infiltrarsi. Imparare ad andare in surf e frequentare i loro ambienti. Conoscerà Bodhi, interpretato dall'indimenticato Patrick Swayze. È a capo di una compagnia di surfisti. È un misto tra un santone e un uomo che rifiuta le regole della società. È affascinante, ha carisma. E il giovane Johnny Utah sente tutto questo. Ma se fosse lui il capo dei rapinatori? Beh, le cose si complicherebbero, di parecchio. Il film è iconico. I rapinatori usano maschere con le fattezze degli ex presidenti degli Stati Uniti. Pure Aldo, Giovanni e Giacomo hanno citato questo aspetto in Tre uomini e una gamba. La colonna sonora è formata da tutto il rock alternativo che era presente in quel periodo ed è perfetta per la Los Angeles che andremo a vedere. L'elemento catalizzatore del film è sicuramente Patrick Swayze. Impossibile non provare simpatie per il suo personaggio. Bodhi è un filosofo, innamorato dell'oceano, dove ti perdi e poi ti ritrovi. Vuole vivere secondo le sue regole. E per certi aspetti è anche un violento, perché sì, usa la violenza ma solo quando è necessaria. Come direbbero gli argentini, è un hombre vertical, ovvero quel tipo di persona che segue una direzione e la porta avanti, sempre e comunque, costi quel che costi. Johnny Utah, invece, essendo interpretato da Keanu Reeves, non è molto espressivo, non è la miglior dote dell'attore. Però la sua tipica espressione ombrosa, pensierosa, si sposa bene con questo personaggio, per cui alla fine va più che bene. Questi due personaggi stanno agli antipodi, perché Bodhi è una persona che ha sfidato le regole e le convenzioni, mentre Johnny Utah rappresenta queste regole. Nonostante questo, sono attratti l'un dall'altro. E la domanda sarà: dove sta il punto di rottura, il point break? A prescindere da tutto, sono le sensazioni forti, l'adrenalina a dominare il film. E poi la natura, che sia l'oceano o un lancio con il paracadute dove ci si sfida a chi lo apre per ultimo. Vita al massimo, oltre il limite, contro ogni regola. E c'è sempre un prezzo da pagare. Perché nobody rides for free, come dicono i rat. La regia è di Kathryn Bigelow, ex moglie di James Cameron. È notevole. Dalle scene di surf fino alle sequenze in prima persona, usando la Steadicam. Uno dei marchi di fabbrica della regista. Le scene d'azione sono fantastiche e soprattutto ben dosate all'interno della pellicola. Merita menzione anche il mitico Gary Busey, il collega più anziano di Utah, Pappas. Strano nome, Pappas. Me lo sono sempre chiesto. Come si fa a chiamarsi Pappas? Comunque sia, porta una carica di simpatia tesa a sdrammatizzare. In un piccolo cameo è presente anche il cantante dei Red Hot Chili Peppers con la sua gang di surfisti teppisti che però non capiscono la vera filosofia del surf, sono dei bulli. A distanza di anni, questa pellicola è ancora una perla. E alcune domande però mi sorgono spontanee: perché oggi è così difficile fare un film del genere, dove c'è tanta azione diretta in modo sublime, tra le altre cose, ma con sentimenti profondi, personaggi al limite che veramente sentono quello che gli sta accadendo. Point Break è caratterizzato da una tensione continua che poi esplode improvvisamente quando ci sono le rapine, gli inseguimenti, i lanci dall'aereo. È un calcio in faccia, pura energia. Grande Patrick, sarai sempre nei nostri cuori. Buona visione.